Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Quando nel 2020 TG e quotidiani ripercorreranno in breve la storia di questo decennio, dovranno fermarsi abbastanza sui primi mesi del 2013. Per la prima volta dopo secoli, un Papa che si dimette. Il conclave elegge il suo successore, il primo Papa extraeuropeo dopo 1500 anni. Le elezioni politiche che hanno chiuso la Terza Repubblica con un Parlamento assolutamente ingovernabile. Ne parlavo giusto l'altra sera con mia zia, una signora piuttosto all'antica. E già, mi diceva mia zia, devono anche eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il nuovo Presidente della Repubblica, quasi me ne ero scordato. Ma perché è così importante per lei il Presidente della Repubblica? E mi torna in mente Giovannino Guareschi, il mio scrittore preferito, il papà di Don Camillo, uno degli ultimi monarchici. Per lui il re era la personificazione del paese intero, una figura paterna e autorevole, capace di incarnare le virtù del popolo e di vegliarlo giorno dopo giorno. Sappiamo com'è andata a finire. Eppure la Repubblica, tra i suoi primi atti, ha voluto ridare al paese una figura paterna, che potrebbe divenire in futuro, chi lo sa, anche una figura materna. Si tratta del Presidente, le cui prerogative sono indicate nella Costituzione. Il suo mandato dura 7 anni, un mandato lungo rispetto a quello delle altre cariche istituzionali. I suoi poteri sono sì di garanzia, ma vanno ben oltre. È il supremo garante della Costituzione. Firma le leggi del Parlamento, scioglie le Camere, forma il governo. Potete trovare il Presidente della Repubblica persino in chiesa. Sì, non quando va a messa lui, ma avete presente il messale, quel librone sull'altare utilizzato dal sacerdote durante le liturgie? Ebbene, tra le collette, le preghiere previste per la messa, accanto a quella per domandare la pioggia, per domandare la pace, l'assistenza dello Spirito Santo per l'elezione di un Papa o di un Vescovo, c'è una preghiera speciale tutta dedicata al Presidente della Repubblica. Non per il Sindaco, non per il Primo Ministro, non per il Presidente della Camera, ma solo per il Presidente della Repubblica. Perché ricerchi costantemente ciò che è gradito al Signore e promuova la libertà e la pace del suo popolo. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Il soggetto dell'autorità politica è il popolo, considerato nella sua totalità quale detentore della sovranità. Il popolo, in varie forme, trasferisce l'esercizio della sua sovranità a coloro che liberamente elegge i suoi rappresentanti, ma conserva la facoltà di farla valere nel controllo dell'operato dei governanti e anche nella loro sostituzione, qualora essi non adempiano in maniera soddisfacente alle loro funzioni. Sebbene questo sia un diritto valido in ogni Stato e in qualsiasi regime politico, il sistema della democrazia, grazie alle sue procedure di controllo, ne permette e ne garantisce la migliore attuazione. Il solo consenso popolare non è tuttavia sufficiente a far ritenere giuste le modalità di esercizio dell'autorità politica. È con noi in collegamento, carissimi ascoltatori, il già senatore e sindaco di Padova, Paolo Giaretta, gradito ospite più volte della nostra trasmissione. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Parliamo di Presidente della Repubblica, ma tralasciando le monarchie, esistono sostanzialmente in Occidente due modelli di democrazia, quello parlamentare e quello presidenziale. Da una parte, come in Germania e in Italia, c'è un presidente garante. In altri paesi, penso alla Francia e agli Stati Uniti, c'è un presidente politico che governa e prende le scelte, anche quelle più concrete. Qual è la differenza tra i due modelli e quale la figura di presidente emerge a confronto? Diciamo che nel nostro caso, Repubblica parlamentare, la centralità è data al Parlamento, il Presidente ha un ruolo esclusivamente di garanzia, non di attivismo politico, di responsabilità politica. Negli altri modelli il Presidente, pur con poteri diversi, ha una più diretta responsabilità di carattere politico. Sia in Francia sia ad esempio negli Stati Uniti, il Presidente è sostanzialmente il capo anche del governo, in modo diretto negli Stati Uniti, in modo diverso dove c'è un Presidente del Consiglio anche in Francia, ma comunque questa soggettività politica. Da noi il Capo dello Stato ha soprattutto un ruolo di garanzia, di buon funzionamento delle istituzioni, e difatti l'articolo 87 della Costituzione dice che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Questa frasetta che i costituenti hanno buttato lì, ci siamo accorti in questi anni di vita della democrazia quanto importante sia che ci sia una personalità che alla fine ci rappresenta veramente come nazione, ci rappresenta tutti, e non è un caso che quasi tutti i presidenti della Repubblica hanno avuto sempre un gradimento molto elevato da parte dell'opinione pubblica. Perché questa, in Italia, è così necessaria questa aura di sacralità attorno alla figura del presidente? Ma io penso che sia giusto che le istituzioni, che dobbiamo sempre ricordarlo, non ci sono regalate, sono state conquistate, senza fare troppa retorica, comunque anche con il sangue, da cittadini patrioti. Nei tempi lontani con il Risorgimento, nei tempi più vicini con la Resistenza. E dunque è giusto che chi rappresenta l'unità nazionale abbia un ruolo che venga riconosciuto come ruolo anche, come dire, sì, contornato di una certa sacralità. Perché non è la figura del Presidente, è l'idea stessa di nazione e di democrazia che viene riassunta dalla figura rappresentativa del Presidente della Repubblica. È un po' il simbolo, diciamo, noi ereditiamo un po' la figura della monarchia, del re, c'è un passaggio di consegne simbolico tra le due figure? Ma insomma, diciamo che era però, è profondamente diverso, perché il Presidente della Repubblica è eletto, sia pure indirettamente, ma è eletto dai cittadini, e difatti non a caso l'elezione del Presidente della Repubblica non è fatta solo dai due rami parlamentari, Camera e Senato, in seduta congiunta. Ad essi si aggiunge anche una rappresentanza importante delle regioni, che eleggono a loro volta una propria rappresentanza, tre delegati per regione, e quindi si assicura un bacino elettorale molto ampio, rappresentativo non solo del Parlamento ma anche delle autonomie locali, e il Presidente quindi ha un rapporto diretto, confermato con il consenso e con le istituzioni democratiche del Paese. Ci fermiamo qualche istante, senatore, torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Non c'è ragione per l'amore, lo sai, arriva e poi va via. Forse non ci sei la chiave. mi succede in un istante, non solo dell'idea ma di ciò che veramente. Su e giù per le salite, le discese del destino, in cerca della chiave, e resterò vicino, vicino a quella porta che porta nel tuo mondo. Insieme a galleggiare, insieme a andare a fondo, sul suono della voce, nel profumo della pelle, per vivere una storia di quelle troppo belle. Per quel che chiamo amore non mi serve ragionare, non serve aver paura se puoi lasciarti andare. E visto che ci credo veramente, amore chiudi gli occhi e non pensare a niente. No, io non ti lascio solo questa notte, altro non c'è, non c'è, non c'è ragione per l'amore, arriva e poi va via, lasciati andare. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti, parliamone. Stiamo in collegamento con il senatore Paolo Giaretta, stiamo parlando del Presidente della Repubblica, questo ruolo così importante nella nostra Repubblica. Grazie per essere con noi. Eccoci qua. Senatore, so che la storia non si fa con i se e con i ma, però le domando: se nel 1946 il referendum fosse andato diversamente, cosa sarebbe successo al nostro paese? Ma penso che ci sarebbe stata una profonda divisione, anche con esiti che avrebbero potuto essere drammatici, perché naturalmente la monarchia portava con sé la grande colpa di avere facilitato prima l'ascesa del fascismo, di averci convissuto, di avere di avere pienamente sposato la causa della guerra perduta e infine anche di essere fuggiti con disonore, perché questo episodio finale purtroppo della monarchia con la fuga a Pescara e poi a Brindisi lasciando l'esercito sbandato. Quindi sarebbe stata veramente una situazione molto difficile. Penso che gli italiani di allora si sono trovati di fronte a una scelta complessa, ma hanno saputo scegliere bene. Torniamo a noi, all'attualità, al 2013. Cosa rimarrà del settennato di Giorgio Napolitano? Ma io penso che resterà il ricordo di un grande galantuomo, veramente di un padre della patria. Non lo dico con istinto retorico, ma è stato un settennato difficile, molto complesso. Abbiamo prima avuto una maggioranza molto forte da parte dello schieramento cappeggiato da Berlusconi, poi questo schieramento si è progressivamente indebolito fino alla crisi drammatica dell'anno scorso, la necessità del Presidente della Repubblica di giocare, diciamo, un'iniziativa previdente per salvaguardare l'Italia nella sua dimensione internazionale. Credo che tutte le persone non faziose possano riconoscere che in questi anni Napolitano è stato veramente il presidente di tutti. È stato scomodo per tutti, anche per il partito da cui proveniva, è stato scomodo nei confronti dei luoghi comuni, ha saputo veramente rappresentare l'Italia nel mondo con una faccia onesta e credibile, che sono virtù semplici ma virtù necessarie in tutte le cose della vita e a maggior ragione nella vita politica. Infatti gli attestati di stima che gli sono arrivati copiosi anche da chi nel 2006 non l'ha votato lo sì. confermano. Torniamo un attimo al discorso dell'elezione che prima faceva. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica con queste funzioni, se ne è parlato, snaturerebbe un po' il suo ruolo? Io penso di sì, penso che senza dover pensare che la Costituzione costruita ormai tanti anni fa debba essere intoccabile, ma c'è una sua logica ed un suo equilibrio. Questa funzione in una Repubblica come la nostra, che è molto articolata perché l'Italia è lunga, è diversa, non è come per dire la Francia che ha una grande capitale, due o tre grandi città e poi tutto si gioca lì attorno. Insomma, è un paese molto articolato, quindi avere una figura unitaria di garanzia che sta sopra il gioco politico, io penso che questo sia importante. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica avrebbe senso se, appunto, come nei sistemi presidenziali, poi il Presidente della Repubblica risponde politicamente di fronte al Paese, quindi ha un'attività diretta di governo, di responsabilità politica. In questa forma il Presidente risponde comunque all'opinione pubblica, perché i cittadini, quando eleggono il Parlamento, delegano i parlamentari e la rappresentanza delle regioni, e quindi non è frutto, come dire, di un accordo di vertice la nomina del Presidente. Tra l'altro la storia repubblicana ci insegna che proprio nelle elezioni del Presidente della Repubblica, che avvengono tra l'altro a scrutinio segreto, molto spesso gli accordi fatti a tavolino non hanno retto e si sono imposte personalità proprio per le loro capacità. Questo è successo quasi sempre, fino dalla prima elezione col presidente Luigi Einaudi, ma pensiamo alle ultime, quelle di Carlo Azeglio Ciampi, quella anche di Scalfaro, quella dello stesso Napolitano, non rispondevano a giochi precostituiti. E nessuno di questi era il candidato previsto all'inizio, come dire, del lavorio per eleggere il Presidente della Repubblica. Emergono proprio dal confronto tra le parti ed emergono anche perché nella loro storia si sono dimostrate persone affidabili. Questo tema della qualità individuale delle personalità politiche spesso viene trascurato, invece è importantissimo. Quale sarà il compito del prossimo Presidente della Repubblica? E dunque, qui si troverà di fronte ad una situazione difficile. Noi non sappiamo ancora il quadro generale, non sarà neanche il nuovo un settennato facile, perché il Presidente appena eletto potrebbe trovarsi di fronte alla difficoltà alla vita di un governo e potrebbe trovarsi di fronte alla necessità inaudita nella storia della Repubblica di un presidente appena eletto che si trovasse a valutare la necessità di sciogliere le Camere perché non c'è una maggioranza politica in grado di governare. Io mi auguro che questa ipotesi non si realizzi, perché sarebbe un'ipotesi anche drammatica per il Paese. Però certo la maggioranza uscita, cioè il risultato delle elezioni, grazie purtroppo alla pessima legge elettorale, il famoso Porcellum, che non garantisce un risultato uguale tra Camera e Senato, ha generato una situazione molto difficile, perché alla Camera ci sarebbe una maggioranza politica chiara che non c'è al Senato. Tornando a noi, non giochiamo a fare il toto presidente, ma ci sarà mai un Presidente della Repubblica donna, ed è importante anche pensare che possa esserci, oppure... Beh, diciamo che certamente è importante che possa esserci. Quando ero parecchio più giovane avevamo sognato la possibilità di fare Tina Anselmi Presidente della Repubblica, sarebbe stato un grande nome. Quindi vedremo come evolve la situazione. Grazie per essere stato con noi, senatore. Arrivederci a tutti. Buona giornata, grazie. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima con Il Bene di Tutti e Parliamone. Mandateci una mail con suggerimenti, critiche o consigli a redazione@bluradioveneto.it. Potete riascoltare le nostre puntate sul nostro sito. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il Bene di Tutti, Parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.